incida delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno a tutti e a tutte i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Siamo giunti ad una nuova super bionda puntata della Rivincita delle Bionde, sempre con Erika Verdecchio, che saluto. Ciao Erika. E buongiorno, e con Carlotta Calarese, che è qui al mio fianco ma è un po' malata, per questo sentite questa voce un po'... Esatto, cioè, avete presente la mia voce? Ecco, oggi è peggio del solito. Però ricordiamo che potete contattarci al numero 333-180-9494 per scriverci tramite sms o WhatsApp. E invece parliamo un po' dei protagonisti della nostra puntata, di questa nuovissima puntata. Sono una band un po' particolare e si chiamano MCCS Punk Lirico. Esatto, ma io direi di non fare troppe anticipazioni. Adesso manderemo un brano di questa band, quindi voi godetevi la canzone e noi ci risentiamo tra poco. Ribelliamoci, rifiutiamoci, facciamogli vedere cosa vuol dire dolore. Insieme suicidiamoci, annientiamoci, picchiamoci, affoghiamoci, spariamoci, facciamogli sentire dolore, dolore. We'll be right back. E rieccoci sintonizzati sui 103.1 per una nuova puntata della Rivincita delle Bionde, con la bionda Carlotta un po' malatina con le placche alla gola, ma si è immolata per noi. Ecco, è venuta solo lo stesso per voi, cioè non solo come al solito saltiamo il pranzo per voi. No, scherzo. Comunque ricordo che potete contattarci al numero 333 180 9494 tramite SMS o anche WhatsApp, e potete seguire tutte le nostre pagine social, quindi Facebook e Instagram. Perfetto, perciò andiamo a parlare dei protagonisti di questa puntata, che sono una band che si chiama MCCS Punk Lirico. E da Bologna ci spostiamo in trasferta a Torino, andiamo sempre più a nord, così Carlotta è più contenta. Sì, sono sempre più felice. Si allontana sempre di più dalla sua Palermo, dove oggi ci sono tipo 30 gradi. Ieri sera ce n'erano 26 di sera, non scherzo. Perfetto, quindi ci spostiamo a Torino e gli MCCS sono un trio composto da una chitarra elettrica, una voce lirica e la batteria. È una formazione molto originale, che a partire da testi grotteschi e provocatori del chitarrista croato Christian sviluppa un energico viaggio tra sonorità metropolitane e richiami alla tradizione zigana. E quindi parliamo un po' della biografia dei componenti di questa band. Maxim Christian, o Christian, è uno scrittore e musicista, ha vissuto in diverse città in tutta Europa, appunto ora vive a Torino, e nel 2007 ha pubblicato per Feltrinelli un romanzo che si intitola Fanculo Pensiero. Già il nome mi piace. Esatto, vabbè, abbiamo detto che è molto provocatorio, quindi ci sta. E adesso scrive per l'Internazionale nella rubrica Italieni, ed è anche un autore di una commedia che si intitola Chi sono, che va in scena a Berlino, e adesso sta collaborando con vari artisti e musicisti italiani. Adesso invece parliamo di Daria Spada, appunto la cantante. Daria è pugliese, ha studiato appunto canto lirico al Conservatorio Verdi di Torino e si è anche laureata in scienze della comunicazione, quindi è una mia collega, con una tesi in etnomusicologia. Nel 2008 lavora invece per Ravenna Festival. Dal 2008 al 2011 ha lavorato per il teatro stabile Kismet di Bari, occupandosi sia di arte civile presso l'istituto penitenziario minorile Fornelli, quindi comunque una persona anche abbastanza impegnata a livello sociale e politico. Invece dal 2011 è a tempo pieno appunto cantante del gruppo MCCS Punk Lirico. In realtà questa è una band molto particolare e unica nel suo genere, fondata appunto dal chitarrista di genere punk e una cantante lirica. Di solito questa unione suona abbastanza strana, ma loro invece sono riusciti nel loro obiettivo. Infatti da Torino, dove vivo, sono saliti alle cronache nazionali per la loro originale sfida al sistema, ovvero il concertino dal balconcino, cioè hanno trasformato il loro balcone di casa in un palco per un'ora la domenica pomeriggio, dando vita appunto da 5 anni, più o meno 5-6 anni, a un vero e proprio punto di arte urbana, un appuntamento fisso per turisti e anche residenti. Esatto, abbiamo raggiunto Daria questa mattina, che ci ha parlato del progetto concertino dal balconcino, perciò andiamo a ascoltare direttamente le sue parole. Raccontaci la vostra storia, la storia di concertino dal balconcino e del vostro gruppo, come è iniziato tutto? Noi siamo venuti a Torino 6 anni fa, Maxim veniva da Berlino, io abitavo allora a Bari, e siamo venuti qui per iniziare insomma la nostra carriera insieme. Lui aveva già scritto un romanzo per Feltrinelli e insieme, visto che avevo insomma una formazione lirica, abbiamo fondato un gruppo punk lirico, gli MCCS Punk Lirico. Che venendo a Torino già subito la prima domenica ci è sembrato carino fare un omaggio al nostro vicinato con questo, vedendoci dal nostro balcone una ventina di minuti. È tutto iniziato così, abbiamo coinvolto vicini di casa con altri strumenti, abbiamo sempre fatto anche a livello statistico, anche se non c'era gente, e finché è iniziato a venire gente poi tra il pubblico, finché la voce non si è sparsa tra la rete di artisti, quindi sempre di più hanno chiesto di venire a suonare, e noi abbiamo, come dire, normalizzato questa situazione. Certo, la situazione si è evoluta, diciamo, quando avete ricevuto purtroppo un avviso di garanzia per disturbo alla quiete pubblica. Cosa è successo? Puoi raccontarci meglio la vicenda? Allora, dopo 2 anni che facevamo il balconcino, quindi quando c'era ancora poca gente, è successo che l'amministratore del condominio ci manda una lettera intimandoci a smettere per il rischio di ingresso di malintenzionati. Da allora è stato fiume, diciamo, di queste cose che si chiamano esposti da parte dell'amministratore alle varie autorità. Il comando provinciale dei vigili del fuoco mi ha chiesto le uscite di sicurezza, quindi immaginati il livello. Noi siamo in un condominio del centro storico di Torino e noi semplicemente cantiamo dal nostro balcone di casa, quindi ci affacciamo al balcone e le persone entrano nel cortile. E quindi l'opposizione vera che abbiamo avuto è dell'amministratore, che non avendo una maggioranza con lui, infatti avevano fatto insomma riunione eccetera, lui non ha mai avuto una maggioranza, quindi non hanno mai messo, che ne so, un avvocato contro di noi, però ha sfruttato tutti i suoi ganci e lui amministra 40 condomini qui in centro città per metterci i bastoni tra le ruote in un altro modo, ossia botte di esposti. Questi esposti sono andati a sfociare in un'indagine che ha mandato avanti la polizia giudiziaria, la quale a sua volta ha dovuto mandare avanti il procedimento davanti a un giudice. Quindi abbiamo ricevuto 2 avvisi di garanzia, sia io che Maxime. In tutto questo si colloca anche la questione proprio del balcone. Lui è venuto a danneggiare il nostro balcone, adesso per fartela breve abbiamo l'unico balcone a norma di tutto il centro storico, quindi i modi per farci smettere sono stati diversi, variegati, però non ci sono ancora riusciti. E la mente è assolutamente questo amministratore di condominio che però ha innescato una macchina che oggi è attiva e si muove indipendentemente da lui. Dunque c'era un americano demenziale, un francese bastardo dentro, un inglese faccia di culo, un italiano ladro vigliacco, un cinese stronzo e crudele, un russo feroce. Ed eccoci ritornati sui 103.1 di Radio Città Fucico per la rivincita delle bionde. Abbiamo appena ascoltato il brano, appunto, No Sex with Israel dei MCCS, punk lirico, che sono i protagonisti di questa biondissima puntata. Ricordo sempre che potete contattarci al numero 333-180-9494 tramite SMS o anche WhatsApp. Adesso sto per spoilerare una novità. Da lunedì prossimo le bionde hanno deciso di aumentare la puntata di mezz'ora, quindi da mezz'ora si passerà ad un'ora, e quindi vi vogliamo lanciare una sfida, un gioco. Se vi va, se avete qualche idea, potete scriverci alla nostra pagina Facebook raccontandoci una rivincita di qualche artista o di qualche genere, persona che conoscete, così da appunto far parte anche voi della rivincita delle bionde. Esatto, poi magari vi invitiamo anche in studio, così facciamo una diretta insieme, perché no? Esatto, quindi fatevi avanti, dai. Allora, invece, ne continuiamo a parlare di questa band. Secondo voi, cantare dal balcone costituisce un reato? Perché è proprio questo che dovrà stabilire la Procura della Repubblica di Torino, che ha aperto appunto un procedimento penale nei confronti di questi artisti, ovvero Cristian e Daria Spada, ideatori appunto di questa iniziativa, il concertino dal balconcino, che da 6 anni appunto è un appuntamento ormai fisso per tantissimi residenti, condomini e non solo del quartiere, che ogni domenica appunto riempiono il cortile di questa meravigliosa via Mercanti. E secondo gli artisti, secondo appunto quanto ci ha raccontato anche Daria, a voler zittire gli artisti urbani sarebbe in particolare appunto l'amministratore del condominio, che avrebbe dato avvio ad una sequenza di esposti, multe e avvisi di garanzie che appunto minacciano la sopravvivenza di questo spettacolo, secondo noi spontaneo e anche gratuito, ormai diventato appunto una istituzione a Torino. Esattamente, e tra l'altro sono stati insomma accusati di rovinare l'ambiente circostante, la quiete pubblica, ma in realtà i condomini e anche il circondario, quindi gli altri abitanti dei condomini vicino, non si sono mai lamentati, loro hanno sempre chiesto il permesso, però c'è questo amministratore di condominio particolarmente accanito nei loro confronti. Anche perché loro ricordo che sono appoggiati da oltre 30.000 persone che in questi anni appunto si sono radunate in questa via. Esatto, e perciò il loro scopo in realtà è quello di creare, anzi lo hanno fatto effettivamente, hanno creato un luogo dove degli artisti emergenti possano esibirsi e farsi conoscere e avere un piccolo pubblico, che poi non è più così piccolo, perché ci ha raccontato Daria che spesso vengono anche più di 200 persone. E perciò ora ascoltiamo la seconda parte di intervista a Daria e ci rivediamo tra poco. In realtà, quindi, il resto dei condomini, ma anche il pubblico che circonda insomma il vostro condominio, sono dalla vostra parte, diciamo così. Assolutamente sì. Anzi, nell'ultimo anno c'è stato anche un ricambio consistente, e abbiamo a fianco un bed and breakfast che fa pubblicità, insomma, con vista al balconcino. I nuovi inquilini che sono venuti, insomma, sono venuti sapendo, hanno acquistato sapendo di venire nel cortile dove un'ora a settimana c'è della musica e della poesia, e quindi sicuramente la situazione è ottimale dal punto di vista del vicinato per noi, molto meglio dell'inizio, dove probabilmente immaginavano che l'amministratore che mandare una lettera bastasse esattamente per far venire più la gente nel cortile quell'ora, perché evidentemente qualcuno dava fastidio questo passaggio, ma in ogni caso noi su questo poi sverterà il processo. Noi pensiamo non solo che sia un evento culturale a tutti gli effetti e che quindi non ci sia proprio disturbo, ma il processo dovrà chiarire se il disturbo è privato o pubblico. Per dire che un disturbo è pubblico ci deve essere una percentuale di persone, eccetera. Quindi questa è la nostra, come dire, piccola battaglia, che però è indicativa anche di tutta la situazione di vita culturale italiana e torinese. Don't let me down. like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Abbiamo appena ascoltato un brano famosissimo dei Beatles intitolato Don't Let Me Down, che è diventato celebre perché è stato uno dei 5 brani che i Beatles hanno suonato nel loro concerto sopra il tetto della Apple Records del 30 gennaio del 1965. Tra l'altro non era una canzone dedicata ai fan, ma doveva essere una canzone da inserire nel loro documentario, sì, sì. Lady B. Esatto, loro si erano esibiti su questo tetto perché dovevano essere, c'erano infatti le telecamere che li riprendevano. Così, e la polizia però ha cercato di sgomberarli, cioè la polizia londinese ha cercato di fermarli, di manganellare e fa ridere, visto che ormai sono diventati ovviamente un colosso della musica di quegli anni, super famosi. E speriamo anche che i ragazzi del concertino dal balconcino possano riuscire ad ottenere la propria rivincita, che già secondo noi l'hanno ottenuta anche da un bel po', perché nel tempo il balconcino si è aperto anche a diverse arti, quindi non soltanto alla musica ma anche alla cultura più in generale e anche all'impegno sociale. E infatti le cause del territorio hanno trovato un palcoscenico ed una cassa di risonanza, quindi tante associazioni e movimenti hanno avuto modo di far sentire la loro voce appunto dal primo piano del numero 3 di Via dei Mercanti. Esattamente, poi il riconoscimento istituzionale che non gli è ancora ha stato appunto dato, e in realtà lo hanno avuto nella società civile, cioè i torinesi, e ma non solo i torinesi, anche i turisti che vanno a Torino li riconoscono, come riconoscono la Domenica del Balconcino come un vero e proprio evento culturale della città di Torino. E infatti ci racconta Daria che addirittura vicino al loro condominio è nato un bed and breakfast, e le persone scelgono quel bed and breakfast proprio per andare a sentire il concertino della domenica. Esatto. Quindi loro continuano a resistere perché vogliono, stanno tuttora valorizzando l'ambiente, quindi non capiamo neanche noi perché vogliono fermare, bloccare una super iniziativa come questa. Sono invidiosi, esatto. Diciamo così. E ascoltiamo l'ultima parte di intervista a Daria e poi torniamo sempre qui sui 103.1. Quindi la vostra intenzione è quella di continuare a fare concerti dal balcone, giusto? Come la nostra avvocatessa Valentina Colletta del Legal Team dei Notav ci ha detto, finché non ci sequestra nel balcone, cosa tuttora improbabile, continuiamo. Pensiamo che questo sia un omaggio, è sempre super frequentato, abbiamo avuto oltretutto appoggio di tantissime istituzioni culturali della città, da Biennale Democrazia, Fringe Festival, Festival della Musica, insomma. Il Salone del Libro ha fatto il Salone Off nel nostro cortile, noi abbiamo avuto un riconoscimento della società civile cosiddetta ben prima delle istituzioni, che evidentemente sono poco propense ad accogliere anche solamente razionalmente un evento che non è finanziato, che non è sponsorizzato, che non è inserito in un progetto, eccetera eccetera, però è, e questa è la realtà. perché ogni domenica ci sono 200 persone, se non di più. Noi siamo una decina di artisti che ci esibiamo ogni domenica, quindi più di così non si può dire. A Bologna oltretutto sono venuti anche insomma diversi artisti, se ne cito due, Gabriele Xella, poeta, anche poeta Marea, che fa queste installazioni urbane su dei panni appesi. Poi sono venuti anche un gruppo musicale che si chiamano gli EH, punto esclamativo, proprio il giorno delle rilevazioni dei decibel, mi ricordo insomma questo particolare. Comunque sono passati più di 800 artisti qui, pensiamo che sia il vero attualmente evento culturale reale dal basso, così come ci si dice insomma ultimamente. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo, vedremo a Torino perché adesso non possiamo, dobbiamo passare per forza, siamo obbligate. Noi vi aspettiamo, voi ditelo prima, vi facciamo stare nel backstage che oltretutto è il nostro monolocale di 20 metri quadri, però è tutto molto bello la domenica, veramente. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please. Let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Please, please, please let me get what I want this time. Per favore, per favore, per favore, lasciami ottenere quello che voglio questa volta. Dedichiamo questa canzone al Tribunale di Torino e all'amministratore del condominio del concertino dal balconcino, affinché insomma smettano di perseguitare questi poveri artisti che non stanno facendo altro se non abbellire il loro quartiere e rendere partecipi tutte le persone che vogliono ascoltare musica gratis. Sì, infatti tra l'altro con la loro iniziativa hanno voluto anche lanciare un messaggio a tutti coloro che sono desiderosi di presentare la propria idea, il proprio talento. Cioè, sei un musicista, sei un artista e vuoi far conoscere le tue idee, la tua arte, non c'è bisogno di aspettare l'ingaggio di una casa discografica, ma inizia ad esibirti lì dove sei, ad esempio appunto sul balcone di casa tua. Quindi è una super iniziativa e noi appunto abbiamo deciso di portarla in puntata perché secondo noi sta adesso ottenendo la sua rivincita, nonostante appunto i fermi, i blocchi e le multe di tutti coloro che vogliono eliminare la cultura da questo paese, che ce n'è tanti, tanti, tanti. Bene, siamo giunte alla conclusione di questa puntata, però vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, dove appunto anziché mezz'ora avrete un'ora a disposizione per parlare e ascoltare le vostre bionde preferite. E ricordiamo che potete anche contattarci sulla nostra pagina Facebook per proporci le vostre rivincite. Esatto, così noi ne possiamo parlare in puntata, quindi fatevi avanti. Esatto, fatevi avanti, fate come gli artisti del concertino del balconcino. E vi auguriamo una buonissima giornata. Adesso accompagneremo Carlotta in guardia medica. Grazie. Esattamente, vi lasciamo con un brano.